Lombardia informerà invece i malati di quanto costano. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, questi titoli, ma cominciamo andando a Genova dove, come sentivate, l'aeroporto è ancora bloccato per la protesta degli operai Fincantieri, non si vola tra la rabbia dei passeggeri. Andrea Ferro. Sì, buongiorno da Genova. Da Roma il ministro dello sviluppo economico Corrado Passero aveva promesso un incontro all'inizio dell'anno per esaminare le prospettive dello stabilimento di Sestri Ponente, rese incertissime dalla mancanza di commesse, ma nonostante varie sollecitazioni la data del vertice con i sindacati non è stata ancora fissata. Così, dopo i blocchi stradali dei giorni scorsi, oggi gli operai della Fincantieri hanno occupato l'aeroporto Cristoforo Colombo, voli e passeggeri bloccati, disagi. E resteranno questi disagi e quindi il blocco, dicono gli operai, finché da Roma non arriverà la convocazione dell'incontro, e non escludono nuove dure forme di protesta. In ballo c'è il futuro occupazionale di oltre 2.300 lavoratori, 800 dipendenti diretti e 1.500 delle ditte esterne, ai quali va aggiunto l'indotto in una zona del ponente genovese negli anni già falcidiata da chiusure e ridimensionamenti produttivi. Appelli alla salvaguardia dei posti di lavoro sono giunti in queste ore da rappresentanti delle istituzioni. Il sindaco Marta Vincenzi ha inviato un telegramma ai ministri Passera e Cancellieri ed è intervenuto anche l'arcivescovo Angelo Bagnasco. Il cardinale è invitato al dialogo e alla difesa dell'occupazione. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. E grazie ad Andrea Ferro. Nel frattempo c'è la notizia di un'ultima ora, l'avete sentita anche nei titoli, un allarme bomba a una delle sedi di Equitalia a Perugia, sono in corso verifiche di polizia e carabinieri, l'allarme è scattato in seguito a una telefonata. Biglietti aerei cresciuti oltre l'8%, ma anche il prezzo del caffè è salito del 16,8% su base annua, e poi l'immancabile benzina. Sono queste le voci che hanno fatto schizzare l'inflazione a dicembre ai massimi dal 2008. L'Istat registra un aumento dello 0,4% rispetto al mese di novembre e un aumento del 3,3% rispetto a dicembre 2010, lo stesso valore annuo registrato a novembre. L'Europa è sull'orlo della recessione, è intervenuto Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo e premier del Lussemburgo. Per Juncker l'Europa deve agire in modo adeguato al rallentamento economico. E per Mario Monti è fissato un nuovo appuntamento nell'agenda europea in una settimana già densa di temi italiani. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. La situazione dell'Eurozona e lo sviluppo economico dell'Europa al centro dell'incontro fissato per il prossimo mercoledì 11 gennaio a Berlino tra il Presidente del Consiglio Mario Monti e la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Sarà anche l'occasione per fare il punto sulle misure per il rigore nei conti già varate dal governo italiano e su quelle per la crescita, lo studio di Palazzo Chigi. Tra queste, gli interventi sul mercato del lavoro, nuove forme contrattuali in sostanza che possano permettere di conciliare i diritti di chi un impiego ce l'ha già con la necessità dall'altra parte di maggiore flessibilità e produttività richieste dal mercato. Una via dunque per far incrementare l'occupazione favorendo giovani e donne. L'ultima indiscrezione in tal senso e che già sta creando diverse polemiche è quella che vedrebbe in campo l'ipotesi di un contratto unico con la sospensione dell'articolo 18 per i neoassunti. Di tutto questo si parlerà comunque la prossima settimana tra governo e parti sociali. Anche oggi la CGIL torna comunque in pressing sull'esecutivo chiedendo che Monti, se vuole un accordo, parli chiaro individuando obiettivi e strumenti. I veti non ci bloccheranno, avrebbe commentato il Presidente del Consiglio. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto in borsa è tornato il segno meno, la BCE starebbe anche comprando titoli di Stato di Italia e Spagna, e non è piaciuta neppure l'operazione Unicredit a quanto pare. Già risentiamo subito Deborah Rosciani. Sì, buongiorno, effettivamente così. Allora, l'azione della BCE sullo spread si fa sentire relativamente perché si gravita ancora intorno a quota 500 punti base, ma il tema del giorno oggi a Milano è un altro, il tema bancario. Come dicevate, tutti i titoli sono in discesa molto forte, trascinano a ribasso il listino intero che in questo momento perde l'1,37%. Protagonista dello scivolone più forte è Unicredit, come abbiamo già detto da questa mattina. Il gruppo, in un consiglio di amministrazione che si è svolto questa mattina molto presto, ha definito i dettagli dell'aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo che sono necessari appunto per ripatrimonializzare il gruppo. Aumento di capitale che parte lunedì prossimo 9 gennaio, ma cosa è successo? Che il prezzo fissato per questa operazione non è stato ritenuto eccessivamente a sconto rispetto al cosiddetto TERP, un termine tecnico piuttosto complicato, è il prezzo teorico ex diritto. Lo sconto scelto e praticato sarà del 43% circa rispetto al prezzo ufficiale di borsa di ieri. Il mercato si auspicava uno sconto più limitato del 40%, invece siamo verso il tetto massimo della forchetta individuata. L'aumento di capitale sarà fatto a 1,94,30 euro e praticamente la banca propone due azioni di nuova emissione, ogni azione ordinaria o a risparmio posseduta. Questo è il quadro e i termini appunto dell'operazione. Tra l'altro le agenzie rilevano che si tratta del più forte sconto realizzato da una banca nelle ultime operazioni di aumento di capitale, appunto dicevamo il 43%, il più alto recente era stato quello optato da parte della banca, dal Banco Popolare, che aveva praticato uno sconto di circa il 29%. Unicredit a Milano perde l'8,53% in questo momento a 5,79 euro, per ora è tutto. Grazie a Deborah Losciani. Bruxelles bacchetta Budapest, una dichiarazione dura quella arrivata poco fa da un portavoce dell'Unione che si chiede se in Ungheria ci sia una democrazia o una dittatura. E questo lo scopo dell'approfondita analisi decisa da parte della Commissione delle leggi costituzionali approvate ed entrate in vigore negli ultimi giorni in Ungheria. Il processo, ha spiegato un portavoce di Bruxelles, può portare alla richiesta di multe in Corte di giustizia. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove è stato un testa a testa interminabile in Iowa. Alla fine l'atteso appuntamento delle primarie del Partito Repubblicano ha decretato la vittoria del favorito Mitt Romney per sfidare Obama. Romney ha preceduto però di soli 8 voti Rick Santorum, è stato l'italoamericano la vera sorpresa. Dopo una nottata interminabile, Mitt Romney si è aggiudicato i caucus dell'Iowa, ma è stata una vittoria strettissima, pensate, appena 8 voti. Non era mai successo che ci fosse una differenza così piccola nella storia di questo Stato. Soprattutto in queste elezioni è emerso un nuovo personaggio, Rick Santorum, ha dato del filo da torcere a Mitt Romney e soprattutto si è imposto sugli altri candidati conservatori. Ha anche fatto un discorso straordinariamente appassionato che ha colpito l'immaginazione degli americani. A questo punto la battaglia si trasferisce in New Hampshire in una corsa a due. Da una parte Mitt Romney con una macchina organizzativa straordinaria e gran quantità di fondi, dall'altra Rick Santorum con pochi fondi ma con grande passione. Attorno a lui finiranno per raccogliersi quasi certamente gli altri candidati conservatori per determinare chi sarà il concorrente da schierare contro Barack Obama. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. Ancora si discute degli stipendi dei parlamentari, il solo motivo di scandalo sta nel comportamento della Commissione Giovannini, attaccato questa mattina a Radio 24 Giuliano Cazzola, deputato del PDL, al microfono di Gigi Donelli. Non sono d'accordo con il metodo, perché una commissione autorevole presieduta da il presidente dell'Istat, composta da esperti di chiara fama, non può su un argomento delicato, sensibilmente delicato, politico come questo, no? Di uscire e dire guarda, noi non ci abbiamo capito nulla. È complesso fare un'analisi per vedere quali sono, per fare dei confronti, però nel frattempo vediamo questi dati, diamo in pasto l'opinione pubblica a questi dati che nel pomeriggio vengono sconfessati dall'ufficio stampa della Camera. In secondo luogo bisogna anche distinguere tra quello che il deputato si mette in tasca e quello che spende, e da questo punto di vista è vero che c'è il malcostume degli assistenti, si può fare meglio, si possono stabilire delle tariffe degli assistenti che siano uguali per tutte, no? Che ci sia un mansionario degli assistenti e poi gli assistenti devono essere pagati, credo, dall'istituzione. E una decisione rivoluzionaria in Lombardia, dal 1 marzo ogni malato saprà il suo prezzo. 1.700 euro per essere operato d'appendicite, oltre 22.000 per un bypass coronaico. D'ora in poi, sdraiati sulla barella prima di entrare in sala operatoria, tutti i malati lombardi sapranno quanto costano allo Stato. La regione, guidata da Roberto Formigoni, ha deciso che da marzo i cittadini dovranno conoscere quanto il servizio sanitario spende per curarli e quindi i medici e le strutture ospedaliere dovranno comunicare ai pazienti quanto esce dalle casse pubbliche per ogni prestazione, che sia un ricovero, un'operazione chirurgica, radiografie o esami del sangue. Lo scopo, dicono al Pirellone, è quello di responsabilizzare il paziente. ma l'ordine dei medici è critica, sottolineando che il cittadino, per essere curato con il servizio sanitario, paga già con le sue tasse. Servirà a farlo anche sentire in colpa sulla soglia della sala operatoria? Oltretutto in Lombardia, dove il costo dei ticket viene applicato a prescindere dal reddito, la spesa di compartecipazione sulle prestazioni è già più alta che in altre regioni. Ad esempio, chi richiede un TAC in Emilia-Romagna paga un ticket di 51 euro, in Veneto di 46, in Lombardia ben 66 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'inchiesta sui grandi appalti avrebbe ora un pentito. Torna a far parlare di sé Francesco Maria De Vito Piscicelli. L'imprenditore romano avrebbe iniziato a collaborare con la Procura di Roma spiegando come funzionava il giro di tangenti emerso dall'inchiesta sui grandi eventi, inchiesta per la quale nel 2010 era stato anche arrestato per corruzione, noto soprattutto per le intercettazioni telefoniche in cui raccontava di aver riso la notte del terremoto dell'Aquila al pensiero dei soldi che avrebbe fatto con la ricostruzione. Lo scorso 26 dicembre Piscicelli era tornato alla ribalta delle cronache perché per portare la madre al ristorante era atterrato col suo elicottero sulla spiaggia di Ansedonia. Secondo quanto rivela oggi il Corriere della Sera, da un paio di mesi l'imprenditore avrebbe deciso di vuotare il sacco, ricostruendo il sistema con il quale venivano spartiti gli appalti gestiti dal provveditorato per i lavori pubblici guidato da Angelo Balducci. Per ottenerli, Piscicelli avrebbe detto di aver sempre dovuto pagare denaro, fare regali preziosi e a volte anche assumere parenti di chi gestiva le pratiche, rivelazioni in parte inedite sulle quali i magistrati del pool coordinato dal procuratore aggiunto Alberto Caperna avrebbero già trovato i primi riscontri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ancora un sequestro di mozzarella blu a Frosinone dopo la partita tolta dal mercato ieri pomeriggio in un grande supermercato del capoluogo. Questa mattina è scattato un nuovo sequestro in un altro supermercato della città. Intanto nei laboratori dell'ASL di Frosinone sono in corso le analisi. E ora a Roma con le novità in vista per il Colosseo. Non più di 6.000 persone alla volta, uno dei monumenti più visitati al mondo, il Colosseo, diventa a numero chiuso. Tra poche settimane, infatti, comunque entro Pasqua, sarà operativo un contapersone. Non più di 6.000 visitatori dunque potranno trovarsi ad un tempo negli spazi compresi tra l'anfiteatro e le terrazze. Quando si raggiungerà il tetto stabilito, si bloccherà l'afflusso in attesa che qualcuno esca e possa essere rimpiazzato. A spiegare la ragione di questa decisione è stata la soprintendente Anna Maria Moretti. Il nostro obiettivo, ha detto, è il controllo delle presenze per non raggiungere i livelli di rischio. Nei giorni scorsi infatti ci sono stati anche dei misteriosi crolli e d'altra parte consentire l'adeguata fruibilità del monumento. Negli ultimi 4 anni il numero di visitatori è aumentato notevolmente di circa il 20%, con un incasso pari anche a 33 milioni di euro in un anno solo per i biglietti di ingresso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pietro Lecorte in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR 24 vi aspetta alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.